Beh, insomma, nessuno l'ha mai capito. Basta prendere una piantina, guardarla e si vede la forma di una grande mela, come quella di un grande pesce per Venezia. Ah, caspita, e il verme? E il verme non lo so, potrebbe essere la Statua della Libertà. Beh, no, secondo me la Statua della Libertà rappresenta il picciolo, no, della mela. Ok, fermatevi, vi prego. Ci sono anche altri soprannomi per quanto riguarda New York. Per esempio, è la città che non dorme mai, perché è possibile incontrare persone ad ogni ora del giorno e della notte. Ma difatti tu ci raccontavi che sei arrivata con l'aereo, mi pare, verso le 4 di mattina o qualcosa di lì, e andando verso la New York viva, quindi dall'aeroporto che è in periferia fino al centro, vedevi cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. Gente che fa jogging? C'erano i marciapiedi pieni di persone. Fate conto che c'erano i locali pieni di gente che ascoltava la classica musica jazz che c'è in tutta New York, e persone che uscivano per fare jogging alle 4 del mattino. Ma anche gente che andava a fare la spesa a quell'ora. Esattamente, perché i negozi sono aperti 24 ore su 24. Loro sono avanti, sono veramente avanti. Comunque New York è anche detta la città nuda, oppure, come si può immaginare, The Liberty City, la città della Statua della Libertà. New York, in particolare Manhattan, quindi va vissuta. Per scoprire tutti i dettagli. Sì, ma certo, ma visto che tu ci sei stata e io per esempio non ci sono mai stata a New York, in che modo è che uno si può qual è il modo che tu consigli per poterla visitare? Diciamo che si può andare a piedi finché ci sono le energie, e invece quando si comincia a essere un pochino più stanchi è meglio prendere i taxi, i famosi taxi gialli di New York. Grandissimi taxi gialli. Tra l'altro, forse nessuno sa che i taxi gialli, proprio il colore e anche il servizio che offrono, va ricollegato a una famiglia nobile che risiede, credo risieda ancora, nel castello di Duino, quindi qua vicino Trieste. Ma dai. Sì, loro sono stati i primi a fondare questa compagnia che forniva trasporto sia per le merci che per le persone, e hanno creato questa macchina d'orologeria che portava le persone da un posto all'altro in tempi strettissimi. Erano le famose diligenze. Esatto, e il colore delle carrozze, perché così venivano riconosciute fin da lontano, era... Era giallo? Bravissima, come le poste italiane, anche se non sono proprio così veloci, probabilmente a cavallo le lettere arriverebbero molto più velocemente. Probabilmente sì. Comunque i taxi di New York sono molto antiquati, però sono facilmente riconoscibili, oltre che dal colore giallo, anche dai cartelloni pubblicitari che ci sono sopra. Ecco. E New York, appunto, Raquel, è piena di cartelloni pubblicitari, dove vengono illustrati vari spettacoli, dove ci sono i film musical. I musical, vi ricordate qualche musical famoso? Hai voglia, West Side Story, ambientato proprio a New York. Cats. Evita. Oppure il famoso Mamma Mia. Hairspray. Jesus Christ Superstar. Hair. Potremmo andare avanti una ore vita. E ore. Volete parlare di qualcuno di questi? C'è qualcosa che vi ha colpito in maniera particolare dei musical? Beh, insomma, la caratteristica principale dei musical americani è una scenografia pazzesca. Hanno delle scenografie enormi. Il Re Leone, per esempio, nella prima scena vede entrare un elefante a grandezza naturale. Ma vero? Non è vero, non è vivo, però è una scenografia, è un costume portato, credo, non so da quanti, 2, 3, 4 persone, ed è quasi altezza naturale, con dietro l'elefantino che arriva. È impressionante come quello che riescono a costruire in scena. Scusate, ma se Re Leone, cosa c'entra l'elefante? Ma scusa, nella prima scena del Re Leone non ci sono tutti gli animali della foresta che si inchinano alla nascita del nuovo re? Vabbè, non importa, Jessie, comunque. Aggiornati. Ma l'importante è arrivare a New York per vedere uno di questi musical, quindi organizzo io il viaggio per tutte noi. Comunque non ci sono solo i musical a New York, per esempio è la città dei grattacieli, anche se adesso fanno un pochino di tenerezza rispetto ai grattacieli che si possono vedere, che ne so, a Shanghai oppure a Tokyo. Per esempio l'Empire State Building ha solamente 86 piani. Beh, direi poco. Sì. Comunque vi posso assicurare che si sente tutta la fatica scalando appunto gli ultimi 10 piani, anche perché io ho trovato appunto l'ascensore rotto, e quindi gli ultimi 10 piani ho dovuto farli totalmente a piedi. Allora forse sarà il caso che ti rimposi un po' da tutta questa fatica. Mettiamo una canzone, va? Direi proprio. Thank you. La giornata più bella che ho passato è stata sicuramente quella a Central Park, un polmone verde all'interno di New York, all'interno di tutti i grattacieli, incredibili. Beh, la cosa da fare assolutamente è fermarsi a una bancarella a mangiare un gelato dai colori improbabili. Quando ci sono andata c'era il gelato di SpongeBob, oppure uno di quegli hot dog unti, straunti, ancora bisunti. Diciamo che forse quello è il souvenir che ricordo di più, perché per digerirlo ci vogliono tipo 48-72 ore. Comunque è stato un bel ricordo. Al centro di Central Park c'è il famoso lago. Voi vi ricordate che cosa è stato girato in quel laghetto? Mi sembra di sì. Era per caso Autumn in New York? Esattamente. E difatti, secondo me, io ci sono andata a fine settembre, New York, in particolare Central Park in autunno, rende ancora tutto più magico e più bello. La camminata che fa Richard Gere con Winona Ryder. È proprio così? C'è questo romanticismo proprio realizzato. Sì. Comunque, Autumn New York è uno di quei film da vedere con in fianco un pacco di Kleenex, perché è stracommovente, vero? Mamma mia, quanto ho pianto guardando quel film, è allucinante. Ve lo consigliamo, però. Io devo essere stata l'unica a non averlo ancora visto. Allora, stasera divanata con Kleenex, ok? Ecco un'idea da fare. Questa è una buona proposta, no? Per tutte le nostre ragazze che ci ascoltano, è quello di noleggiare Autumn New York e di vederla assieme con le proprie amiche. Oppure di costringere il fidanzato a vedere Autumn in New York. Dai, andiamo avanti. Central Park è insomma. Ma cosa è successo quel giorno? Allora, Central Park è bellissimo perché ho fatto queste camminate, però attorno a Central Park ci sono delle stradine che vi portano nei vari musei, come il Metropolitan, il Museo di Storia Naturale, che è quello dove hanno girato un altro film famosissimo, cioè Una notte al museo. No! Eh sì, cara Jay. Difatti c'è quell'immenso dinosauro, anzi lo scheletro, perché ormai il dinosauro non c'è più, che compariva nel film Con, vi ricordate chi era l'attore protagonista? Ben Stiller. Esattamente. E vi dirò di più, in quel film fa un cameo anche un attore italiano, Pierfrancesco Favino, che nessuno riconosce, fa un genovese, io non so neanche. Ah, io pensavo, ma fa una delle statue comunque, nel museo, tipo Pocahontas. Sì, è uno di quelli, prende anche vita per un attimo, poi lo eliminano. Poi mi scrivi il nome che guardo su Google. Sì, va bene. Critiche cinematografiche. Comunque, mamma mia. New York è un grande set cinematografico, c'è stato girato credo di tutto, ma a parte i film di cui parleremo più tardi, i telefilm, cioè sì, ma difatti ci sono dei dettagli, sono un piccolo aneddoto per poi rientrare a Central Park, dove sono stati presi appunto i dettagli per fare i cartoni animati, che ne so, Ghostbuster. Ho visto addirittura il camion dei Vigili del Fuoco che poi hanno preso per fare il film o il cartone animato. Comunque, tornando a Central Park, attorno ci sono tutti i vari musei, per esempio il MoMA, il Museum of Modern Art. Una dritta, il venerdì pomeriggio si entra gratis. Free entry, esatto. E dopo tutti questi musei, uno ormai non ne può più di cultura, può tranquillamente prendere un tour di quelli che fanno, per esempio, sui set di Sex and the City, che è bello. Una cosa che noi donne, ragazzi, quando ci parlano di New York, ci parlano di Sex and the City, quella è la New York che ci viene in mente. Oppure di appunto tutti questi set dei film, oppure di Friends, che è un altro telefilm, Gossip Girl, o i Robinson, di per sé anche quelli sono stati girati. Robinson. Comunque adesso mettiamo un'altra canzone, proprio per traghettarci da questa gita a New York ai film. E mettiamo la canzone che non potrebbe mai mancare se si parla di New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Questa era la mitica Liza Minnelli con una canzone che non poteva proprio mancare parlando di New York. Questa tra l'altro è anche la colonna sonora di un film dall'omonimo titolo New York, New York, girato nel 1977 e diretto da Martin Scorsese con protagonisti Liza Minnelli e Robert De Niro. È una storia un po' complicata, è una storia d'amore tra queste due persone appunto interpretate da De Niro e dalla Minnelli, che si innamorano, sono molto appassionati di jazz, diventano divi molto famosi e di tutti i problemi che questo comporta nel loro rapporto. Di qualche altro film adesso ci parlerà Jessica, giusto? Assolutamente. Una citazione. Se io trovassi un posto a questo mondo che mi facesse sentire come da Tiffany, comprerei i mobili e darei al gatto un nome. Io questa non la capisco. Questa è... Beh, certo, è Breakfast at Tiffany's. Non potrebbe dire meglio. Colazione da Tiffany. È un film americano con Audrey Hepburn e George Peppard. Benissimo, ha vinto la canzone Moon River 2 premi Oscar nel 1962, migliore colonna sonora e miglior canzone, e un David di Donatello nel 1962, migliore attrice straniera. Una veloce citazione sulla trama. Qui parliamo di Holly, una giovanissima ragazza di grande fascino, e vive facendo la prostituta di alto bordo e sogna di sposare un uomo ricco che la faccia vivere in maniera benestante senza troppe fatiche e che le faccia comprare tutti i gioielli del negozio, dell'amato negozio Tiffany. Però il destino non è sempre così, vero ragazze? Qui abbiamo invece un giovane uomo di nome Paul, scrittore, introverso, che cerca ispirazione e trova ispirazione proprio su Holly. I due caratteri si scontrano, lui cercherà di sgretolare il suo mondo di paillette, invece lei vuole rifugiarsi nella sua realtà, però alla fine l'amore vince. Al contrario però di quello che voleva lo scrittore, perché questo film è proprio tratto da un romanzo di Truman Capote. Truman chi? Truman Capote, Rachele, dai. Ah, quella della macchina, insomma, la Capote della macchina. Jessica, vai avanti, no, per favore, è proprio meglio. Truman. Lo Capote. Chiameremo Truman. Lui praticamente disse, accusò la Paramount di averlo scavalcato su tutti i fronti, perché il film non finiva con un lieto fine come tutti i grandi lavori americani, però finiva con la divisione dei due personaggi principali e la loro vita separata, perché la discussione non venne superata. E lui voleva anche per questo film Marilyn, voleva assolutamente Marilyn, ma è stata Marilyn Monroe. Ah, scusa. La grande Marilyn, l'unica Marilyn. E questo Truman sbagliò, perché con Audrey Hepburn ha avuto un grande successo. Infatti, ora come ora, abbiamo un sacco di gadget, caricature in tutte le parti del mondo, come qui in Italia, come ma a Londra, sì, ti ricordi Nadine? Sì, quando siamo andati l'anno scorso pieno a Londra, mi sembra fosse a Covent Garden. Tu, sì, Jessica, hai comprato la borsa? Sì, ho comprato la borsa. Comunque, onestamente, per fortuna che ha scelto Audrey Hepburn, perché è molto più facile avere un tubino nero come quello indossato da Audrey piuttosto del vestito bianco di Marilyn Monroe. No, vero? Pensate ad andare in giro magari a fare la spesa col vestitino, sperando che non ci siano tombini. Benissimo, hai capito. Esattamente. E comunque i famosi occhialoni indossati da Holly, un cult, sono tornati di moda. Chi non ne ha un paio? E a proposito di tornare di moda, ho trovato una notizia che noi aspettavamo veramente da tanto tempo. Stanno per tornare i puffi. Oh, sì. Bella. Proprio mentre spulciavo le notizie sui film ambientati a New York è venuta fuori questa notizia in cui i puffi usciranno come film nel 2011. Noi non vedevamo l'ora. La trama più o meno è questa. Allora, nel Medioevo il mago malvagio Gargamella scopre il villaggio dei puffi, piccole creature intelligenti del sottobosco. Tanto per capire chi sono. E li costringe alla fuga. Questi, non so in che modo miracoloso, attraverso un portale magico, riescono ad arrivare fino a Central Park, a New York. Secondo il produttore, impareremo di più circa Gargamella e i puffi, e su come è iniziato tutto, e che cosa succede realmente dentro quel castello. Noi non vedevamo l'ora. Non aspettiamo altro. Certo, i puffi siamo così. Contiamo i giorni di Central Park. E dopo questa, musica. Ah sì. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's... Girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Siamo sempre qui a Lipstick Lagoon. E dopo questa meravigliosa canzone di Jay-Z e Alicia Keys che ci ha fatto sognare le strade di New York, vi lasciamo per un minuto di reclam. Lipstick Lagoon. Ed arriviamo alla parte più seria del nostro programma. In questa puntata volevamo raccontarvi la storia di un gruppo di donne. Ardito Anna, 25 anni. Bassino Rosi, 31 anni. Bellotta Vincenza, 16 anni. Bellotta Ignazia. Benanti Vincenza, 22 anni. Caruso Albina, 20 anni. Castillo Giuseppa, 21 anni. Dora Clara, 19 anni. Coletti Antonia, 30 anni. Maltese Lucia, 18 anni. Maltese Catherine, 38 anni. Maltese Rosaria, 14 anni. Manara Maria, 27 anni. Marciano Michela, 25 anni. Miale Bettina, 18 anni. Midolo Gaetana, 16 anni. Pasquali Cantognetta, 16 anni. Pinello Vincenza, 30 anni. Prato Mile, 21 anni. Ragazze giovani. Dai nomi comuni. Potrebbero essere le nostre vicine di casa. Le commesse del negozio in cui andiamo a fare acquisti. Le nostre colleghe di lavoro. O le nostre migliori amiche. Siamo nella New York del 1911. Le donne cominciavano allora ad avere la possibilità di lavorare. Misure di tutela dei lavoratori ancora non ce n'erano. Lo sfruttamento era all'ordine del giorno. I movimenti sindacali muovevano i primi passi. L'America allora era sinonimo di ricchezza. Felicità. Libertà. E opportunità. Queste ragazze si erano trasferite a New York sognando una vita felice. Forse sognavano di poter mettere su una famiglia. Di avere una creatura tutta loro da coccolare. Alcune di loro, forse una famiglia di cui prendersi cura, l'avevano già. Ognuna di loro aveva la sua storia e i suoi sogni. Ma tutte, per poterli realizzare, si trovavano a lavorare, con molte altre donne, per la Triangle Company, che produceva camicette molto in voga all'epoca. La loro giornata lavorativa cominciava alle 7:30 e finiva alle 21. In tutta la giornata, l'unica pausa loro concessa era una mezz'ora per il pranzo. Il lavoro che dovevano fare era altamente noioso. Dovevano tagliare stoffa, o cucire, o stare dietro una macchina che avrebbe cucito per loro, per 12 ore consecutive. Era vietato cantare o chiacchierare. Era vietato sedersi sulle scale antincendio durante la pausa pranzo, nelle tiepide giornate primaverili. Se dovevano andare in bagno, rischiavano il licenziamento se vi si trattenevano più di quello che il loro superiore pensava fosse necessario. In più, i proprietari della società, Max Blank e Isaac Harris, per paura di furti o che le ragazze si assentassero per prendersi una pausa in più, le chiudevano dentro la stanza nella quale lavoravano, dove il loro spazio non era molto, visto che in ogni angolo libero era posizionata una macchina tessitrice. Il 25 marzo 1911, quasi all'ora di chiusura, al nono piano dell'Ash Building, proprio ad est di Washington Square, scoppia un incendio. È il palazzo della Triangle Company. Le cause dell'incendio sono incerte. Pare che un operaio gettò a terra, vicino ai numerosi scatoloni di materiali infiammabili presenti nella fabbrica, un fiammifero, utilizzato per accendere l'agognata sigaretta di fine turno. Il fuoco si propagò velocemente. Le scale antincendio non erano sufficienti a permettere la fuga di tutti. Max Planck e Isaac Harris, che al momento dell'incendio si trovavano al decimo piano e che tenevano chiuse a chiave le operaie, si misero in salvo incuranti della sorte delle ragazze. Senza mezzi per spegnere il fuoco e con l'unica uscita di sicurezza chiusa a chiave fu impossibile mettersi in salvo. Nell'incendio persero la vita 146 persone, per lo più giovani donne. Alcune morirono tra le fiamme. Alcune lanciandosi dalle finestre del palazzo nel tentativo di scappare dal fuoco con l'ultimo volo disperato. L'evento ebbe una forte eco sociale e politica, a seguito della quale vennero varate nuove leggi sulla sicurezza sul lavoro e crebbero notevolmente le adesioni alla International Ladies Garment Workers Union, uno oggi dei più importanti sindacati degli Stati Uniti. Max Planck e Isaac Harris furono processati, ma alla fine furono assolti grazie alla loro costosa ed eccellente difesa. L'assicurazione pagò loro $445 per ogni operaia morta, ma solo $75 furono risarcimento distribuito alle famiglie. Adesso è difficile riuscire ad immaginarsi un evento del genere. Ormai la tutela dei lavoratori e delle donne è data per scontata. Per questo riteniamo importante raccontare la storia di donne che hanno vissuto in tempi e condizioni diverse e che, seppur inconsapevolmente, hanno tristemente contribuito a costruire i privilegi di cui possiamo godere oggi. A loro e a tutte le loro colleghe che hanno perso la vita in quell'incendio vorremmo dedicare questa canzone. La loro vita è stata breve, ma con che metro si può misurare la vita di un uomo o di una donna? Minuti? Ore? Anni? Non è meglio misurarle in risate, pianti, momenti con gli amici? Quell'incendio ha bruscamente interrotto la primavera della loro vita. Speriamo che da allora abbiano vissuto una stagione piena di amore. Un'infinita Seasons of Love. 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in the life? How about you? E dopo questo momento di riflessione torniamo un po' a qualche argomento un po' più terra-terra. Sì, terra-terra insomma proprio no, perché è vero sì che parliamo di moda, quindi un argomento un attimino così più leggero, però parliamo di moda newyorkese, cioè adesso vediamo i 10 consigli più importanti per vivere come le donne più trendy del pianeta, le newyorkesi. Così benissimo, anche qui dal Veneto possiamo somigliare a delle newyorkesi doc. Esatto, quindi anche camminando per San Donà potremo far finta di essere una Carrie di Sex and the City, insomma non si sa mai. Cominciamo. Allora, ragazze, domanda a voi. Chi ha un paio di stivali da eschimese? Jessica, no, non puoi non averli. Però dai, si può mettere il pelo. Esatto, no, proprio il pelo. Perché il problema della Jessica, il fatto che non abbia gli stivali da eschimese, è che non hanno il tacco, se non sbaglio, gli stivali da eschimese. Non quindi ma infatti, sono già fuori, ecco, dalla sua proprio mi avete preso, proprio, avete colto il punto giusto. Perché tutte pensano, New York, super trend, tutte le donne vanno in giro con questi super tacchi, esatto, 18 centimetri. No, niente di più sbagliato. In estate infradito, in autunno ballerine ed in inverno quegli orribili stivali. Quelli, come si chiamano? Ug. Una roba tipo Uga Uga. Cioè anche il nome è tutto un programma. Disgustosi, scamosciati, peli che escono. Però sono trendy. Tanto brutti quanto trendy. Ma più grande e grosso è il pelo che praticamente... Ragazze, io non... Ok, cambiamo, ok. Io non vorrei dire, ma se uno avesse sintonizzato la radio adesso, potrebbe aver pensato di tutto dalle ultime benissimo, cose. Quindi, no, stiamo parlando solamente di moda newyorkesi, tranquilli, non preoccupatevi. Erano stivali, quelli coi peli che uscivano, grandi e grossi, erano stivali. Benissimo, passiamo al secondo consiglio, quindi un attimino, diciamo, più nelle righe, insomma, più o meno. Allora, passiamo dai piedi alla testa, perché il secondo consiglio fashion è la fascia di lana per i capelli, immancabile. Fascia di lana che più decorata, più fiori, più paillette ha, meglio è. Quindi compratevi un qualcosa, un copri orecchie, quindi evitiamo tipi. Ma in tutte le stagioni? Ma sì, dai, a New York si può fare questo ed altro. Magari se è un'altra stagione te la tiri giù, lo fai come tipo collana di lana, hai capito? Una cosa che si adegua. La fantasia regna sovrana. Esatto, guarda, veramente. E per non lasciare la testa libera, questa abbinata testa e collo, quindi attorno al collo una bellissima sciarpa, che sia lana se siamo in primavera, cioè scusate, sete in primavera, sono anche già ubriaca, lana lo sprizzi prima, sì, ragazzi, stai facendo effetto, siamo qua. Meno male che tu eri quella che voleva la cioccolata con panna. Va bene, detto questo, ecco, a proposito di panna, arriviamo al consiglio culinario. Sì, culinario, siamo tutti non ho detto altre parole, per carità, non siate già così sospetti. Allora, volete fare una cena? Jessica, tu che sei, ok, tu che hai la casa, noi tutte siamo ancora in affitto. Benissimo. Jessica, organizzi in settimana una cena newyorkese, quindi ci inviti, ragazze, venite a fare una... Cosa cucini? Secondo me nulla, perché i newyorkesi sono tutti o a dieta oppure mangiano tantissimo. Benissimo, no. Allora, quindi noi siamo a dieta, avete capito? Noi che dieta, noi non hot dog. Vi preparo la vera cena newyorkese. Il nulla. Nulla. Allora, va bene, primo, secondo, ho capito, decidi tu, non c'è problema. L'importante è l'aperitivo e il dessert. Cioè, mentre se noi siamo a spritz, così questa cosa un po', cioè solo veneta, non si può andare a New York e chiedere uno spritz. No. No. Allora, l'aperitivo newyorkese per eccellenza, cioè sentite questa cosa qua. Martini e succo di mela verde, liscio e delizioso, da servire con una fettina di green apple. Cioè, una cosa... Ma Martini è italiano alla fine, quindi neanche in New York... No Martini, no party, George Clooney, cioè tutte queste cose qua molto, yeah. Dopo andiamo a ordinarci subito un martini con un po' di mela verde. Verde, proprio per depurare la pelle. Oppure come quello che bevono in Scrubs, un melantini. Esatto. O appletini, mi se piace, vogliamo dirla all'inglese. Ci piace molto. Bene. Ma io sapevo il Manhattan. Tipico newyorkese. Ma quello magari il post, stronzo. Facciamo il pre martini, il post Manhattan e tutto a letto, già veramente, ok. E poi quelle cose bellissime che si vedono solamente nelle vetrine newyorkesi, queste piccole tipo muffin, ma non sono muffin, sono da mangiare? Sì, sono i dolci, si chiamano cupcakes ed è una piccola, diciamo, pasta tipo muffin, quindi un po' più, però un po' più spumosa, quindi un po' più leggera, ricoperta da glassa che più è rosa, più è... Che fame! E quindi questo, insomma, per concludere. Ragazze, l'accendiamo? Fantastico. L'accendiamo. Certo che questi newyorkesi sono molto fantasiosi, quindi basta un po' di fantasia e possiamo diventare anche noi un po'... Esatto, ce la possiamo fare. Quindi dopo questi iniziali consigli vi lasciamo con un po' di musica, ma tornate con noi. Sì, la canzone è tratta dal film di Sex and the City, dal primo, è una magnifica Jennifer Hudson che ci spiega come vestirci d'amore. When you can wear what you feel, what you... bellissime. Continuiamo passando a qualche consiglio di bellezza derivante direttamente dalle donne newyorkesi. Come fare ad avere un viso perfetto? Ecco, questo è il cruccio di ogni donna. Una plastica. E beh, forse New York plastiche ce ne sono in abbondanza. Poi c'è Central Park, quindi un po' di ossigeno attivo che ravviva tutta la circolazione. Però c'è anche una crema. C'è una crema magica e ragazzi e ragazze si può comprare anche in Italia perché è arrivata in Italia. Quindi vi do il titolo, se avete carta e penna annotatevi. Si chiama prenota That Gal di Benefit e dovrebbe trovarsi insomma in tutte le profumerie credo tra breve, ed è una crema che grazie a delle sostanze particolari insomma rivitalizzanti rende la pelle liscia, pulita, levigata. Insomma ragazze, bisogna comprarlo. Sì, cioè quello che fa qualunque crema che trovi in qualunque farmacia, ma se viene da New York è più is better, costosa. Sì, ma infatti il prezzo è in internet c'è il nome ma non il prezzo, su richiesta. Sì. Insomma, sarà come nei bazar dell'Africa del Nord o arabi dove contratti il prezzo e quindi te lo puoi portare a casa. O a rate, un mutuo, esatto. Dovete accendere un mutuo. Chi non ha un mutuo per una casa lo apre per questa crema. Va bene, però passiamo a qualcosa di un attimino meno costoso. Allora ragazzi, chi è che è la French di voi? La French? Sì, diciamo che siamo tutte dotate di French. Io sono italiana. No, cos'è ragazze, la French? La manicure, quella là, tutta bella. Quella... Voi non conoscete la Nadine. Per lei la French è il French. Sbagliato articolo. Andate, no, dimmi. Non ho neanche un fidanzato francese. Quelle unghie bellissime, lunghe. Sì. Quelle bicolore. Che... Benissimo, sono contenta che non le abbiate perché non c'è niente, scusate se qualcuno all'ascolto ce le ha, mi dispiace dirlo, però per le newyorkesi sono pacchiane. No. Quindi via French e unghie curate, ma assolutamente cortissime. Sì? Cioè comunque corte o naturali, quindi tutto questo French che andiamo a pagare fil, queste cose qua, ma no, dove? Crema e unghie e semplicemente io sono così, alla moda filo. Allora, sono super moda newyorkese. Un filo esatto di... di smalto trasparente. Esatto. Ma anche nulla perché, vorrei dire, con tutto lo smog di New York avete idea di come si riducano le unghie dopo una giornata passata a camminare per strada? Da white a grey a black, non so, sarebbero, vabbè, una gradazione di colori. L'ultima cosa che dedico a Jessica è l'ultima moda di New York, è anche quella di non uscire da soli, però neanche in compagnia di un essere umano. E cioè con una pianta? Con un pupazzo? Quasi. Col pupazzo è vivente ma non umano. È vivente ma non umano. Un canarino. È vivente ma non umano. Come Dio. Un canarino. Usciamo qualcosa di alternativo con Dio. Va bene, allora ragazzi, okay, no. Ci provo io. Sì, allora, grazie. Piccoli cani accessoriati. Quindi voi vedete qualcuno, sembrate sia da solo, ma abbassate lo sguardo e vedete questo cosetta a quattro zampe che ha barboncino. Esatto, infatti mi ricordavo il barboncino che a Siviglia abbiamo visto insieme, di quella Jessica si è innamorata, per questo dedichiamo questa entrata alla Jessica. Quindi bisogna andare via con un cane super addobbato. Esatto. Quindi ragazzi, ragazze, avete sentito i consigli? Annotateli da domani, tutte in giro per San Donà. Quindi, con un barboncino rosa. Dobbiamo metterci un paio di stivali col pelo, una bandana di lana, un po' di frufru con un cane addobbato e via per le strade. Fantastico, saremo dice super lode. Fashion, ragazzi. E il vestito? Sì. E il vestito, no no, quello è a libera scelta, perché sapete che a New York si è talmente tanti da diverse culture, un melting pot vero. Quindi vestiti, basta il pelo. Il pelo però è importante. Pelo al cane, pelo sui piedi, pelo ovunque. E più pelo per tutto. Però pelo fuori ma non dentro, ci teniamoci sotto. Il pelo alle newyorkesi piace molto, pare di capire. Okay, no ragazzi, bene, stiamo degenerando qua. Comunque vediamo... vi abbiamo appena dato i consigli per come vestirvi a carnevale. Ok, Rachele, hai qualche consiglio musicale da darci in stile New York? Sì, beh, adesso stiamo ormai lasciando New York e quindi pensavo che potevamo... lasciarla con i REM. It's quiet now, and what it brings is everything comes calling back. A brilliant night, I'm still alive. looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. In way. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. The memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But it's you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Lasciate le cinture, prego. Il volo 747 della Leipzig Lagoon Airlines, New York Venezia, sta per atterrare. Dalle vostre hostess, quindi Rachele, Jessica e Nadine, un grazie per aver viaggiato con noi. Oh oh, mi è sembrato di sentire la nostra sigla. La puntata sta terminando, ma vi lasciamo con una perla di saggezza dalla nostra viaggiatrice filosofa. I viaggi sono la parte frivola nella vita delle persone serie e la parte seria nella vita delle persone frivole. Meditate, gente, meditate! Ma cosa vuoi che meditiamo sugli spritz che hai bevuto tu e anch'io probabilmente? E li contiamo anche però! Cioè, ma ragazzi, no, non facciamoci riconoscere veramente. Ma non sono basta. Tanti, scusa. Avete soffiato? Avete soffiato? Guido io!